L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale per raccontarvi questa Europa che ci accompagna quotidianamente, un programma in collaborazione con Euronet. Vi consiglio sempre di visitare il portale euronet.eu, è questo portale dove tante voci dall'Europa tentano di raccontare la nostra unione. Radio 24 lo fa quotidianamente, noi il sabato cerchiamo di portare anche altre sfumature, altri punti di vista su questa cultura europea. Ci trovate su Facebook, facebook.com/l'altra Europa, le nostre pagine ufficiali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare, oppure su Twitter, @FedericoTaddia. Queste sono le nostre coordinate, parte il nostro viaggio oggi dall'Ungheria. Üdvözlök mindenkit ezen a történelmi jelentőségű napon. Ha nem lesznek politikai beszédek, így én sem fogok ilyet mondani. Én a csatlakozó szervezetek felsorolásra és némi technikai információ miatt jöttem most a színpadra. Erano 30.000, erano 70.000 secondo gli osservatori, 100.000 secondo gli organizzatori, comunque erano veramente tante le persone che sono scese in piazza a Budapest per protestare. Era il 2 di gennaio, da tanto tempo non si vedeva così tanta gente in questa società che sembrava un po' addormentata, e invece c'è stato un risveglio con il nuovo anno, una protesta forte, una protesta collettiva all'opera dove si festeggiava, dove il governo festeggiava la riforma costituzionale, una riforma che sta portando tanti problemi, tante critiche all'Ungheria. Perché? Perché siamo così molto vicini a un regime, ci sono delle scelte, delle decisioni prese dal governo Orban che fanno assolutamente discutere già nel mirino anche della Commissione europea, ci si sta muovendo anche a livello internazionale, e le persone hanno fatto sentire la loro voce, hanno fatto sentire il loro dissenso. Si è letto tanto di queste proteste, ma queste proteste racchiudono anche tante storie, anche perché oltre alla riforma della Costituzione c'è stata anche qualche mese fa una riforma per quello che riguarda la censura, per quello che riguarda il sistema della comunicazione all'interno del paese. Noi vogliamo raccontarvi una di queste storie. A Budapest in questi giorni c'era una collega di Radio Città del Capo che è andata proprio a visitare una di queste radio prossime alla chiusura, una radio appunto non allineata con il regime, e le conseguenze sono che probabilmente entro poche settimane dovrà spegnere i propri ripetitori. Diamole il benvenuto a Giusy Marcante. Ciao Giusy. Buongiorno Federico e anche agli ascoltatori di Radio 24. Club Radio, questo è il nome della radio che abbiamo scelto un po' come emblema di quello che sta accadendo in Ungheria. Tu sei andata a fare una chiacchierata con il direttore. Che storia hai trovato? Qual è la verità? Che aria si respira anche in queste ore a Budapest? Beh, partiamo intanto dal fatto che Club Radio è una radio molto ascoltata in Ungheria, una radio che ha una tradizione decennale e che si sente in tutta la nazione, e che è in questo momento definita l'unica radio di opposizione rispetto alle altre emittenti che sono per la maggioranza pubbliche e quindi considerate allineate col governo di Viktor Orban. Club Radio si trova a Obuda, che è uno dei quartieri di Budapest, quello più collinare e se vogliamo quello più fuori dai giri turistici. Io ho parlato con il direttore di Club Radio, che si chiama Andres Arato. I magiari mi perdoneranno se non lo... Sei scusata, assolutamente. Esatto, se non cito insomma perfettamente il nome, che è un uomo di 52 anni, una persona molto solare, che ci ha accolto nel suo ufficio di questa, che è un'emittente grossa, perché Arato ci ha parlato di 100 lavoratori, di cui 50 sono giornalisti, giornalisti, quindi insomma un emittente strutturata. È una radio che, dicevi tu, giustamente rischia di cessare di vivere tra poche settimane, perché non gli è stata rinnovata la frequenza. Rato ci ha spiegato che la concessione della frequenza loro ce l'avevano per 12 anni, la decisione di non rinnovargliela è recente e affonda in questa nuova legge sui media che è stata varata l'anno scorso, il 1 gennaio, che poi durante i mesi ha subito alcune parziali modifiche dopo le proteste che si erano levate. Se insomma, tutti gli ascoltatori ricorderanno anche il paragone che era stato fatto, no, tra la legge Bavaglio italiana, quella che poi non è mai stata varata, certo, e questa. In realtà questa legge, nonostante alcune modifiche che sono state apportate nei mesi, mantiene in sé, Arato ci ha spiegato, un forte principio di autocensura. Lui dice: è una legge che inizialmente è stata presentata come una legge che doveva servire a proteggere i media dai contenuti pornografici, pensate così, ma in realtà non è questo. È una legge che ad esempio obbliga i giornalisti a rivelare le loro fonti sempre, sì, in ogni caso e comunque su richiesta, ed è una legge che prevede la nascita di un'authority per l'informazione. E Arato ci ha fatto questo esempio qua, insomma non ci sono regole precise, chi dà le licenze, chi stabilisce le regole è la stessa entità che decide chi punire o no per l'applicazione della legge sui media, quindi non c'è un'entità terza, no, che possa intervenire. E questo insomma come senso generale della legge. Poi c'è la questione della frequenza. A Club Radio il Consiglio dei Mezzi di Informazione, che è un'entità governativa, non ha rinnovato la frequenza, e la frequenza di Club Radio è stata data ad un'altra radio, e Arato con un po' di orgoglio diceva che quest'altra radio ha solo 3.000 euro di capitale e ha vinto di un solo punto la gara, insomma, rispetto a loro. C'è però una piccola speranza, perché è stato fatto un ricorso alla Corte di Giustizia e vedremo. In ogni caso loro sono concretamente a rischio chiusura, tanto che il direttore ci parlava anche del fatto che si stanno organizzando per lo sbarco su internet, non come semplice streaming, insomma, nel senso che la radio, invito gli ascoltatori, insomma, certo, è in magiaro, quindi non semplicissima, però si può andare tranquillamente ad ascoltarla digitando clubradio.hu. Esatto, link che abbiamo già pubblicato anche noi sulle nostre pagine in Facebook. Ma Giusy, tu hai respirato, o comunque dalle parole del direttore c'è il timore di un regime, nel senso che questa paura che tutta la comunità internazionale ha nei confronti delle scelte di Orban le è toccate con mano lì? Sì, lui ne parla apertamente. Lui ci ha anche raccontato che ha chiesto di intervistare il Premier negli scorsi mesi e ha inoltrato la richiesta, ma gli è sempre stato risposto che Orban non poteva per impedimenti legati alla salute. Allora, con un po' di ironia, il direttore ha detto: ma io non discuto che ci si possa anche ammalare, però non mi sento di credere molto a questa scusa. E sì, lui dice che in questo momento, se in Ungheria uno legge un giornale o ascolta la radio o vede la TV, sembra che le cose vadano bene. Ci sono dei media di opposizione come questa radio, c'è un altro quotidiano di cui non vi so ripetere il nome, mi dovete scusare, ma era il vecchio quotidiano legato al partito comunista, si chiamava Libertà del Popolo, adesso è rinnovato da molti anni, è un normale tabloid ed è un giornale che sta facendo opposizione. Arato ha fatto questo paragone: Rakosi, un leader bolscevico negli anni 50, dice avrebbe molto apprezzato quello che in questo momento emerge dei ai media ungheresi, il governo è il migliore che ci potrebbe essere, l'Ungheria è un paradiso. Lui probabilmente pone anche in modo eccessivo l'accento, no, su questi aspetti di chiusura dei media, però dice che quello che sta accadendo in Ungheria è molto più conosciuto fuori dai confini ungheresi che all'interno. E ciò nonostante, questa manifestazione di lunedì scorso, alla quale c'era anche il direttore di Club Radio, è stata molto partecipata. Insomma, 100.000 di 100.000 dati dagli organizzatori forse sono stati un numero esagerato, però decine di migliaia di persone sì. Si sono fatti sentire. Grazie davvero, Giusy, per averci raccontato questa storia in presa diretta. In bocca al lupo per il tuo lavoro. Ciao, grazie, buon sabato. Grazie, ciao, ciao. Buona trasmissione. Europost-it. EF ti porta in stage in giro per il mondo. Cosa c'è di meglio di farsi 3 mesi di tirocinio non in uno, ma in 4 continenti diversi? Education First, che ha scuole di lingua in tutto il mondo, cerca uno stagista da far viaggiare come una trottola nelle sue sedi più emozionanti. Basta inviare il proprio curriculum e postare il proprio video di presentazione sul sito ufficiale. EF ti sfida a farti pubblicità usando i social network. Il numero di like ottenuto dal tuo video sarà un parametro per la giuria. Solo partecipando si vince un corso online di inglese della durata di 1 mese. Il vincitore assoluto avrà invece l'opportunità di farsi un'esperienza professionale nelle sedi EF di New York, Zurigo, Shanghai e Sydney. Maggiori informazioni su facebook.com/EF Global Intern. Cambiamo argomento. Lo sapete, con Euronet ogni settimana scegliamo un tema comune da affrontare, poi con tanti contributi diversi e tante voci diverse. Beh, il tema scelto questa settimana è, ahimè, molto italiano. Possiamo parlare della sindrome di Cortina, per rimanere sulla stretta attualità. Parliamo infatti di evasione fiscale, soprattutto del prezzo delle tasse non pagate. Tasse non pagate non solo in Italia, non solo in Grecia, per prendere 2 nazioni che spesso dalle parti di Bruxelles vengono prese come esempio di quanti soldi vengano rubati, non dati allo Stato. Ma l'evasione fiscale è comunque un male che colpisce tutta l'Europa. Questo prezzo delle tasse non pagate ricade veramente poi sulle tasche dei cittadini all'interno di tutta l'Unione. Volevamo fare una fotografia di quello che accade anche al di là dei nostri stretti confini, e per farlo abbiamo invitato Benedetto Santa Croce, esperto in materia fiscale, professore di diritto tributario comunitario presso l'Università Marconi di Roma, con un'esperienza appunto a livello europeo su queste tematiche. Ciao Benedetto, ben ritrovato. Ciao a te, siamo ascoltatori. Allora, si parla di evasione fiscale, uno pensa subito a Cortina in queste ore, ma pensa subito all'Italia. Siamo gli unici ad evadere all'interno dell'Europa, adesso così per partire in maniera quasi banale. Si può fare una fotografia di quello che accade all'interno dell'Unione? Ma si può fare una fotografia, ma di fatto è tutto sempre molto relativa, no? Dipende dai parametri, dai punti di vista. L'Unione Europea e l'OCSE hanno cercato di fotografare questa situazione. Quello che è chiaro è che l'Italia, con un'evasione che viaggia tra i 150 e i 175 miliardi di euro pro anno, diciamo che si trova in una posizione piuttosto avvantaggiata rispetto ad altri stati. Certamente un po' più lontani da noi, però anche i grandi stati come Germania, Francia e Inghilterra non è che se la passano molto meglio, nel senso che evidentemente le economie sommerse, quindi la contribuzione che viene fatta nei confronti dello Stato, anche lì è abbastanza ridotta, anche se per esempio da uno studio che è stato fatto da una organizzazione europea si arriva ad individuare la grandezza economia sommersa per noi sul 27% del totale, mentre sulla Germania il 16% e sulla Francia il 15%. Quindi sostanzialmente la distanza tra noi e gli altri paesi, e quindi sostanzialmente poi il livello di evasione da noi, è più elevato. Certo, ci sono stati anche piccoli come il Belgio che manifestano anche loro però un livello di evasione che si aggira sul 25%, quindi sostanzialmente anche per loro piccoli paesi, piccolo paese come il Belgio, si trova in una situazione abbastanza di crisi. Insomma. Ecco Benedetto, ma là invece dove non si evade, o comunque dove si evade di meno, è più una questione culturale o c'è una normativa più ferrea, o comunque forse anche più, ma non so, c'è una ricaduta diversa sui cittadini, quindi c'è una sorta di incentivo a pagare le tasse? Ma diciamo che innanzitutto l'impostazione del sistema italiano non aiuta, però in generale ci sono paesi come per esempio l'Olanda, che ha un livello di tassazione non elevatissimo, quindi una pressione fiscale ridotta, che in qualche modo favorisce anche una certa un comportamento attivo da parte dei contribuenti. C'è anche un sistema per cui evidentemente c'è anche un problema proprio di tipo culturale, per cui in alcuni paesi la contribuzione pubblica alla contribuzione pubblica evidentemente si dà spazio in maniera maggiore. Sicuramente un tema di equilibrio tra il rapporto delle misure e l'efficacia delle stesse dipende anche da come queste misure vengono applicate. Cioè, il problema che abbiamo in Italia molto spesso è che si abbaia molto, nel senso ci sono sanzioni, ci sono editti di vario tipo, però poi l'efficacia effettiva di andare ad individuare i soggetti e poi colpirli e poi punirli è una cosa molto più lontana. Basta pensare che in Italia, se andiamo a vedere le statistiche del contenzioso dall'Agenzia delle Entrate, il 50% delle cause vengono perse dal fisco, quindi c'è qualcosa che non quadra proprio nella macchina fiscale. Certamente un meccanismo che per esempio è stato sviluppato in altri paesi e che in Italia sta stentando è quello proprio invece dei meccanismi di analisi del rischio, cioè la possibilità di utilizzare sempre di più le banche dati informatiche per andare ad incrociare i dati. In quel modo si avrebbe sicuramente una possibilità di individuare più soggetti a rischio, e questo porterebbe però in qualche modo a rendere l'azione del fisco un po' più mirata e quindi avere anche un effetto deterrenza, che mi sembra un altro elemento importante in determinate economie. Certo, e Benedetto, probabilmente, non so, potrebbero avere senso delle leggi uguali all'interno dell'Unione, o forse comunque anche cercare di coordinare meglio quelle che sono la lotta all'evasione. Poi ci sono scelte che vanno discutere, per esempio in Italia si sta parlando molto della questione del contante, è una questione così attuale anche nel resto d'Europa? Ecco, questa è una cosa un po' particolare, perché mi è capitato ovviamente in questi giorni che si parla di questo tema, di affrontarlo anche a livello europeo, e sostanzialmente in molti paesi questo tema non è assolutamente sentito, cioè nel senso che se uno va in alcuni paesi tipo la Francia, tipo l'Inghilterra, cioè avere dei limiti nel pagamento in contanti non esiste. Ma perché? Perché l'utilizzo del contante è molto ridotto rispetto alle transazioni ordinarie, cioè in generale usano mezzi tracciabili, e quindi questo problema non è sentito. Ma basta pensare che poi misure come la nostra misura l'hanno presa la Grecia, che ha un limite di 1500 euro, piuttosto che la Nigeria, piuttosto che paesi abbastanza particolari, dove evidentemente abbiamo un tasso di evasione che si realizza proprio attraverso l'utilizzo di denaro nero, cioè di denaro che evidentemente non emerge. È chiaro che la misura del contante, cioè l'utilizzo del contante, e quindi la riduzione di questo utilizzo produrrebbe comunque un meccanismo virtuoso, perché porterebbe in bianco molto di quel denaro che invece attualmente viaggia completamente nascosto. e quindi in questo modo facendo rientrare nel circolo, diciamo, del circolo bancario, è evidente che poi sarebbe molto più facile tracciarlo e molto più facile andare a tracciare quelli che sono i flussi finanziari. Ecco, è chiaro che da questo punto di vista l'osservazione che facevi tu sul problema della coerenza, diciamo tra virgolette, dei sistemi o sul fatto che bisognerebbe prendere misure multilaterali, ecco, è abbastanza interessante come l'Europa in momenti di crisi decida di prendere delle misure come adesso il Fiscal Act, cioè questa volontà di trovare delle soluzioni comuni, però poi ecco quando va sull'evasione o sull'antievasione ancora è molto disallineata, per cui ci sono stati e situazioni che sono difformi o comunque hanno un impatto diverso in termini di normativa. Probabilmente da questo punto di vista un coordinamento, un'attività comune a livello europeo sarebbe molto importante. Grazie davvero Benedetto per averci dato un quadro di quella che è la situazione. Benedetto Santa Croce, professore di diritto tributario comunitario presso l'Università Marconi di Roma. Eri a Cortina in questi giorni? No, okay, perfetto, così. Ci vanno tutti, ho visto anche il direttore dell'agenzia, quindi ci vanno tutti. Ciao e buon sabato, alla prossima, grazie. Grazie, ciao. Ciao. Europost-it. Londra e Parigi per piccoli turisti, magia e giocattoli a portata di mostra. Quando si viaggia con i bambini è importante scegliere anche attrazioni che li coinvolgano e li emozionino. Le mostre di solito sono l'incubo dei genitori che passano più tempo a tenere d'occhio i loro bimbi piuttosto che a godersi l'esposizione. Se vi trovate in visita a Londra, fate un salto alla mostra Magic Worlds del Museo dell'Infanzia, dove i vostri figli partiranno per un viaggio alla scoperta di illusioni, pozioni e formule magiche. Unica regola, vietato non toccare. Per informazioni, vam.ac.uk/mock. Siete a Parigi? Al Grand Palais c'è una mostra che fa per voi, Des Jouets et des Hommes, una carrellata di giocattoli provenienti dai paesi più disparati e dalle epoche più diverse. Per prezzi e orari visitate il sito grandpalais.fr. Se che mio amore non te va, io non quiero forzar una situazione che después de algún tiempo nos obligue a dejarnos por algo que no es. Sé que no tengo por qué. Parleremo molto di anziani in questo 2012, proprio perché il 2012 è stato proclamato anno europeo dell'invecchiamento attivo e delle solidarietà tra le generazioni, quindi un'occasione per tutti noi per riflettere su come oggi si vive a lungo in Europa, però appunto come vive la terza età e soprattutto non solo con pietismo, appunto proponendo tutte quelle che sono attività positive. Quindi andremo in giro per l'Europa a cercare iniziative anche curiose, ma che dietro nascondono sempre delle belle storie. E partiamo proprio dalla Spagna, perché in Spagna abbiamo trovato una bella storia, un progetto che sta partendo proprio in queste settimane ed è relativo alla costruzione di una prima casa di riposo per soli gay. Con noi c'è Federico Armenteros Avila, che è il presidente della Fondazione 26 dicembre, che ha promosso il progetto. Ciao Federico, benvenuto all'Altra Europa. Grazie anche a voi, buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro Fondazione 26 dicembre è un nome, una data che credo sia particolarmente significativa. Sì, perché quando è finito di entrare in carcere, prima nel 1970 con Franco in la dittatura, ha messo una legge contro gli omosessuali. Uh-huh. Allora nel 1978 e tolto quella legge, è giusto il giorno 26 di dicembre, e per quello abbiamo preso quel nome per la fondazione. Federico, come mai questa esigenza, da dove nasce questa idea, questo progetto? Nasce perché la conoscenza dei vecchi in Spagna e anche in Europa omosessuali non vogliono andare in casa di riposo generali, per chiamarli così, perché sì, non si sentono bene, si sentono discriminati e preferiscono essere in casa da soli aspettando la morte senza niente che possa far, che si possa fare con loro. Allora, come noi, io sono educatore sociale, sì, e conosco più, un po' più la realtà della gente vecchia e omosessuali, abbiamo cominciato a parlare con molta gente e abbiamo visto che loro volevano essere in un posto, finire la sua vita in un posto dove la gente che aveva cura di loro siano rispettuoso con loro e possano vivere un po' in pace. Perché appunto l'anziano omosessuale si trova a doversi di nuovo nascondere, cioè dopo magari passato una vita tranquilla, una volta diventato anziano, una volta appunto magari ospite di una casa di riposo, per non essere discriminato deve di nuovo celare la propria omosessualità. Stanno arrivando un po' di messaggi, per esempio ne è arrivato un'ora su Twitter che dice ma sarebbe come dire una casa di riposo per soli uomini o per sole donne, è una cosa del Medioevo, è un ghetto, e invece no, andate proprio nella direzione opposta. Opposta, ecco. Non è esclusivo, non soltanto per uomini omosessuali, è specializzato in persone omosessuali, che possono essere le lesbianas, gays, transessuali, bisessuali e anche eterosessuali, anche. Perché è aperta, non è chiusa soltanto, è specializzata, dove la gente omosessuale sa che va a avere delle cure specializzate per loro, soprattutto per il rispetto alla sua maniera di vivere. Certo. Federico, esistono già esperienze simili? Vi siete ispirati a progetti già nati? Mi sembra che ci sono in Finlandia, nel nord e soprattutto in Germania. Okay, quindi... Noi qua in Spagna incomincia a essere quella idea, perché prima è difficile prendere tutta quella gente perché non vogliono essere conosciute molte. Ancora hanno molta paura. Quella gente vecchia ha molta paura ancora per quella legge che era in contra di loro e di noi. Allora tutta quella gente che è vissuta, quella legge sono adesso quella gente vecchia e hanno molta, molta paura ancora. Federico, vuoi darci un sito per seguire meglio le vostre attività? Sì, siamo in Twitter e anche in Facebook. Sì. In Facebook mettiamo tutte le cose, tutti i giorni, e siamo a parlare anche dell'anno europeo che avete parlato prima, e noi siamo parte di, come in Spagna, parte dell'organismo, parte anche di quello. Sì, che vogliamo essere la voce dei vecchi omosessuali che mai nessuno gli ha dato la voce, e incominciamo noi a essere i primi per andare alla normalizzazione. Noi non vogliamo ghetti, né vogliamo essere esclusivi, no, vogliamo parlare, elaborare e andare verso la normalizzazione. Che essere qualcosa non ti possa dire niente male di te. Assolutamente. Il sito è www. Fundación. Sì. In spagnolo è Fundazione. Sì. 26 in numero. Sì. Di dicembre. .org. .org, perfetto, l'abbiamo già linkata anche nelle nostre coordinate in rete. Grazie davvero Federico, in bocca al lupo per il vostro progetto, ma ci ritroveremo sicuramente qui all'Altra Europa. Sì. Ciao e buon sabato. Ciao. Europostit. In Catalogna i Matador vanno in cassa integrazione. Dal 1 gennaio nella regione spagnola della Catalogna la corrida è ufficialmente abolita. Questo grazie all'associazione PRO, che ha raccolto più di 120.000 firme per porre fine ad una manifestazione controversa che molti considerano un'inutile crudeltà. Secondo la legge di abolizione approvata un anno e mezzo fa, durante questi primi sei mesi del 2012, lo Stato dovrà quantificare i danni economici che tutti i lavoratori delle corride subiranno. Questi ultimi parlano di centinaia di milioni di euro, ben al di sopra delle stime del Parlamento catalano. Sono molti quelli che si oppongono a questa legge, in primis il Partito Popolare, che ha preparato un ricorso già sulla scrivania della Corte Costituzionale. Per maggiori informazioni visitate il sito della campagna abolizionista su pro.cat. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa de Madrid con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. E rimaniamo in Spagna, quello che avete appena ascoltato, il giuramento del nuovo sindaco di Madrid, si chiama Ana Botella, donna probabilmente di cui già si sta parlando tanto in Spagna e forse se ne parlerà ancora per capire il perché. Abbiamo convocato una delle voci più conosciute qui all'Altra Europa, quella di Toni Polo da Barcellona. Ciao Toni. Buongiorno. Buongiorno, come stai? Buon anno intanto. Buon anno altrettanto. Ricordiamo che tu stiamo bene più o meno. Giornalista delle pagine culturali del giornale Pubblico, Pubblico, giusto? Perfetto. Toni, allora, Madrid, città che bene conosciamo, un nuovo sindaco, faccia nota in Spagna? Faccia molto nota perché lei è la moglie di José María Aznar, l'anteriore presidente del governo del Partito Popolare, pure lei ovviamente del Partito Popolare. Il caso sta che le elezioni al Comune di Madrid sono state il passato mese di maggio. Lei era la numero due dell'appello della lista di candidati del Partito Popolare. Il primo era Ruiz Gallardón, che era già il sindaco, vinse le elezioni e è rimasto lui. Però il nuovo governo di Mariano Rajoy ha preso Gallardón come ministro di giustizia, per cui è diventata sindaco Ana Botella, che era la numero due. Ci sono problemi logicamente, perché molti pensano che non è una decisione democratica, nel senso che il popolo di Madrid ha votato Gallardón, non ha votato lei. Ci sono precedenti però, sono precedenti anche tra i socialisti, per esempio in Andalusia accade la stessa cosa, il presidente della regione della comunità autonomica andalusa, Manuel Chávez, quando era presidente fu chiamato da Zapatero per un ministero e allora entrò Griñán, che era il secondo del Partito Socialista, era la stessa cosa, venne molto criticata dai popolari. Adesso fanno la stessa cosa, vabbè. Ci sono quelli che non sono forse né popolari né socialisti, hanno più ragioni da lamentarsi, no? Ok, ma al di là appunto della vicenda che l'ha portata a essere primo cittadino, ci sono così insomma anche qualche leggenda legata a questo personaggio. Intanto, insomma, ha una sua indipendenza o è burattino di Aznar? No, ha una sua indipendenza politica. Ha una sua indipendenza politica. Comunque lei nel suo discorso di accettare questo che abbiamo appena sentito, lei aveva già posto suo marito José María Aznar come il principale esempio come persona e come politico. Quindi molti dicono che sì, che sarà un burattino. Lei però è da qualche anno, è dal 2004 che nel comune di Madrid. Lei si è occupata come consigliere di medio ambiente e lì c'è stata molta polemica perché Madrid aveva superato questo nel 2010 Madrid superò i limiti di inquinamento fissati dall'Organizzazione Mondiale della Salute, dall'Unione Europea, e quello che si fece, fu molto, molto criticato, fu cambiare i sensori, queste per misurare l'inquinamento, e li trasportò nei parchi in periferia dal centro. Cioè fu una cosa molto criticata da tutti. Personaggio insomma conservatrice, cattolica, molto conservatrice, molto cattolica, è anche conosciuta per Ana Botella, peras y manzanas, le pere e le mele, perché quando ci fu la legge dei un favore che permetteva ai matrimoni tra omosessuali, lei quello che disse fu appunto che due pere sommano quattro pere, due pere più due pere sono quattro pere, due mele più due mele quattro mele, quindi non si possono mescolare, una cosa contro natura. Venne anche molto criticata dalle parti contrarie, no, diciamo. Certo. E insomma, ci sarà da ridere, nel senso largo del termine, credo che sarà da seguire Madrid, anche perché ci sono appuntamenti importanti, tra il quale la candidatura ai Giochi Olimpici del 2020, quindi insomma, no, si gioca al futuro. Ecco, è una delle sue priorità. Delle sue priorità, logicamente, perché voleva essere per il 2016, venne nel 2012, scusa, non ci riuscì. Comunque, praticamente l'80% delle infrastrutture sono costruite, così è un obiettivo che non vogliono lasciare perdere. Perfetto. Grazie davvero, Tony, come sempre, per averci fotografato angoli e scenari spagnoli. Ci ritroveremo sicuramente grazie qui all'Altra voi. Europa. Ciao, buon sabato. Okay, ciao, ciao. Buon anno, ciao, ciao. Europost-it. Giovani architetti d'Italia, questo progetto Leonardo è per voi. L'Istituto Nazionale di Architettura ha aperto il bando che mette in palio borse di studio per tirocini transnazionali di 20 settimane. Il progetto è rivolto a 39 giovani architetti italiani di massimo 35 anni iscritti all'Istituto per il 2012 che abbiano conseguito una laurea magistrale e che vogliono approfondire la loro formazione in progettazione architettonica sostenibile. Ci sono posti disponibili in Spagna, Repubblica Ceca, Lituania e Portogallo. Verranno valutati curriculum, conoscenza della lingua inglese e del paese ospitante, pubblicazioni, voto di laurea e condizioni economiche. La metà delle borse è destinata a donne e abitanti di zone disagiate. Per maggiori informazioni visitate il sito inarc.it. Eccoci qua ancora con l'altra Europa, un'altra storia che arriva dall'est europeo, arriva dalla Romania. Ne ha parlato la stampa questa settimana, il titolo del reportage era "Da qui truffiamo il mondo", si parla di un villaggio, Ramniciu Valcea, che è la capitale romena degli hacker. Insomma, gli hacker sono da questa cittadina, ci sono truffe che girano in rete in tutto il mondo. Questi giovani romeni con un'alta scolarizzazione, alte capacità informatiche, mancano sbocchi lavorativi e trovano nella illegalità online la possibilità di portare a casa uno stipendio. Per capire qual è veramente la situazione, abbiamo invitato un avvocato di Como, che già abbiamo conosciuto qui all'Altra Europa, è legale del Consolato Generale di Romania e più di una volta anche ha difeso alcuni di questi hacker, quindi nessuno meglio di lui può presentarci questo villaggio e in generale quella che è la situazione in Romania. Diamo il benvenuto a Pierpaolo Livio. Buongiorno Pierpaolo, ciao, ben ritrovato. Ciao Federico, un buongiorno a te, un saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, tu sei stato in questo villaggio, lo conosci, Ramniciu Valcea, è questa la giusta pronuncia? No, la pronuncia esatta è Ramniciu Valcea. Non è esattamente un villaggio, perché è una bella città con almeno 100.000 abitanti, una grossa università, è affacciata su un bel fiume che oltretutto proprio nella zona dell'università ha un'ansa molto grande che lo fa sembrare una bella città come Como sul lago. Oh, okay. Ecco. Ed è veramente la capitale mondiale degli hacker? Guarda, tu mi hai colto un po' di sorpresa, perché io tornavo dalle ferie e sono stato contattato da voi per parlare di questo fenomeno e come al solito è un fenomeno comunque del quale si parla da diversi anni, ho incontrato nell'articolo che ha scatenato un po' la polemica, ha un pregio questo articolo e sostanzialmente tre difetti. Il pregio è quello di riportare alle luci della ribalta questo che è un gravissimo problema di criminalità organizzata internazionale, che non è limitato sicuramente a Ramniciu Valcea, come si pronuncia bene alla romena, ma ha il grosso difetto di creare una grossa confusione, perché, e adesso andiamo a specificarlo, non sono hacker in senso stretto, queste persone che commettono questi reati, ma sono dei delinquentelli veri, mettiamolo in questi termini. E oltretutto il fenomeno che viene dalla Romania è connotato come quello di specializzazione, di eccezionalità, forse perché il più grande hacker rumeno che ho difeso io in Italia, che è Ionescu Bogdan Gabriel, è stato il campione del mondo di informatica. Allora si associa l'hacker ad un'attività di truffa online molto più semplice, molto più facile da realizzare, che niente a che fare con l'alta scolarizzazione di questi rumeni. La Romania è una sommità assoluta a livello mondiale per la preparazione dei propri laureati a livello informatico, infatti moltissimi ragazzi rumeni vengono poi utilizzati da grandi aziende, grandi imprese. Lo stesso Ionescu, dopo quella brutta parentesi che l'ha visto come capo espiatorio, interprete marginale di questa realtà, ha attualmente un eccezionale posto di lavoro, ci sono ancora delle prospettive migliori, quindi vediamo un po' com'è. E si è fatto anche 2 o 3 anni di galera, no? No, ha fatto soltanto un anno, poi fortunatamente il consolato generale, il dottor Tiberius Dino Mugurelli, il consolato generale, mi ha chiesto di occuparmi del caso, sono riuscito a farlo uscire praticamente subito dal carcere, si sta laureando in ingegneria, ha solo 23 anni Gabriel, e attualmente è impiegato presso un'azienda che si occupa di domotica, lui sviluppa sistemi informativi, è insomma, un fenomeno questo ragazzo. Io parlavo di questa confusione perché l'hacker in senso stretto sarebbe quello che si intrude in sistemi informatici o banche dati. L'esempio classico può essere quello di War Games oppure quello di Mission Impossible, del penultimo Mission Impossible. Una cosa diversa invece, che poco ha a che fare con le reali capacità informatiche di intrudersi in sistemi informatici con degli algoritmi di decriptazioni frattali, cosa che aveva fatto Gabriel invece, è il fenomeno del phishing o peggio ancora il fenomeno della clonazione delle carte di credito con i bancomat o con la connivenza degli esercenti di esercizi commerciali, perché la confusione sta proprio in questo: non ha niente di particolarmente geniale clonare una carta di credito, perché semplicemente si acquistano su internet dei kit di clonazione, che questa è la cosa incredibile, che vengono messi in rete questi sistemi, si acquistano questi skimmer che vengono posizionati sui bancomat piuttosto che vengono posizionati negli esercizi commerciali, si captano i codici delle carte di credito, vengono ricopiati con una macchinetta che viene dolcemente chiamata il gatto su altre su degli altri supporti magnetici, e poi si utilizzano queste carte di credito o per comprare dei beni, sì, oppure in molti casi si ricaricano delle poste pay e trasferendo da un conto all'altro il denaro. Il vero problema poi è riuscire ad ottenere questo denaro, ed è qui che entra in gioco veramente la criminalità organizzata, che magari all'inizio, come possiamo dire, recluta anche dei ragazzi molto geniali per compilare e programmare il programma che all'origine viene utilizzato, sì, ma poi questo programma che viene pagato a Gabriel, per esempio, venne pagato 5.000 euro, un programma con il quale venne portato via a Poste Italiane 6 milioni di euro. Ecco, quindi dal loro punto di vista funzionava il programma, direi. Beh, piuttosto bene. Sì. Per Paolo, grazie davvero come sempre, perché insomma sei il massimo esperto delle problematiche legali in Romania, e anche questa volta insomma c'hai fotografato la situazione. Ci ritroveremo sicuramente. Tu comunque in Romania, se ho ben capito, stai lontano dal computer quando vai là. Sto lontano dalle carte di credito. Io non sono così d'accordo ad utilizzare le carte di credito in luogo del denaro contante. Il denaro contante è il mezzo di pagamento più sicuro, sia per chi lo fa sia per chi lo riceve. Qui si apre il dibattito. Grazie davvero. Ciao Pierpaolo. E lei si chiama Veronica Maggio, la canzone Welcomen in, vuol dire benvenuto in svedese. Lei è una delle cantanti pop contemporanee più gettonate, è italo-svedese ed è, l'abbiamo utilizzato un po' come, come simbolo del copimismo, questa... questa religione che è stata approvata in Svezia, copiare i file, condividerlo, diventa appunto un culto, e in Svezia è stata approvata la chiesa del copimismo, è stata riconosciuta ufficialmente dall'organo statale deputato alla registrazione delle comunità religiose. La notizia ha fatto il giro del mondo, ma ho scoperto che in verità se ne parla pochissimo proprio in Svezia, e così ce l'ha confermato Gabriele Formentini, amico dell'Altra Europa, il meteorologo che è scappato dall'Italia ed è lassù in Svezia a controllare i mari del nord. Ciao Gabriele. Buongiorno a tutti. Ciao, ben ritrovato. E come stai? Tutto bene? Sei ancora lì? Controlli sempre i mari del nord? Sì, assolutamente. Perfetto. Gabriele, abbiamo veramente due minuti. Esiste questo copimismo? Cioè, lo sapevi della nascita di questa nuova chiesa? No, per dire la verità, la notizia mi sembra che sia passata abbastanza inosservata sui principali giornali. Ho solo trovato un piccolo articolo ieri in cui si diceva appunto che questo nuovo culto è stato registrato al Kammerkollegiet, che è l'ente deputato alla registrazione, alle certificazioni. Mm-hmm. Questo non significa granché, se non altro che nessun altro potrà registrare un altro culto religioso con lo stesso nome. Ok, ma esistono luoghi di culto, esistono dei riti, esiste una pagina ufficiale in internet, esiste qualcosa di questa chiesa? C'è una pagina bianca, semplicissima, ma direi che non c'è molto di più, insomma. Dicono di avere circa 3.000 adepti, mm-hmm, ma non è richiesta nessuna iscrizione. Ti sento un po' scettico, Sì. Così lo dico, questo è quello che percepiamo qui dall'Italia. Gabriele, invece parliamo di cose più serie, almeno per quello che ti riguarda. Sei appena tornato, so, da una caccia alle aurore boreali, dico bene? Sì, esatto, abbiamo organizzato anche quest'anno come l'anno scorso un bel viaggio nel grande nord della Svezia, nella Lapponia, e abbiamo trascorso 4-5 giorni quindi tra Kiruna e il confine con la Norvegia, appunto per cercare di vedere le aurore. Quindi abbiamo portato via con noi una ventina di italiani, lo facciamo questo dall'anno scorso, e il 30 dicembre siamo stati graziati, abbiamo visto delle bellissime aurore boreali, appunto. Ma si possono prevedere? Diciamo che questo è il periodo migliore in questi anni, quest'anno, il prossimo e ancora quello successivo, perché il ciclo solare di 11 anni sta risalendo, e poi chiaramente dipende tutto dalle condizioni meteorologiche, ma lì è il mio lavoro, quindi sei avvantaggiato. E dacci al volo il tuo sito per andare a vedere, credo, le foto o comunque il racconto di questo bel viaggio. Esatto, è www.auroreboreali.it. Perfetto, lo pubblicheremo sicuramente nelle nostre pagine Facebook. Ciao Gabriele, grazie davvero e buon copimismo a te e a tutte, e a tutti i fedeli. E un grazie a voi che siete stati in nostra compagnia. Margherita Ina, Viola Frifa, che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca e Paolo Corleone oggi in assistenza alla parte tecnica. Radio24.it per ritrovarci. Di là c'è già Davide Paolini, il gastronauta. Subito dopo il GR, ancora ciao da Federico Taddia.